Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. Questa casa non è un albergo, ha traslocato come altri programmi di Radio 24 al Salone del Libro di Torino e noi siamo qui con ragazzi davanti a noi del liceo Alfieri di Torino e tanti altri visitatori che ci stanno venendo a trovare. Do solo due indicazioni: padiglione 2 accanto alla sala blu. Per voi invece che ci seguite da casa, questa casa non è un albergo, funziona come tutti i sabati e quindi potete già mettervi in contatto con noi all'800 24 00 24. Non vi trascureremo di certo. Accanto a me il mio inquilino Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, è proprio un piacere, un privilegio poter trasmettere con i nostri ascoltatori davanti a noi. Allora, noi abbiamo veramente tanti ospiti e io inizierei da Benedetta Cibrario. Benedetta, ciao! Ciao, ciao! Premio Campiello con Rosso Vermiglio, quest'anno Ribissi con un altro successo, Sotto cieli non curanti, Feltrinelli. Con te naturalmente affronteremo il tema di oggi, che voglio già anticipare con l'aiuto di Alberto, prima di salutare gli altri due ospiti. Oggi vogliamo capire che cosa leggono gli adolescenti oggi e fare un confronto con quello che leggevamo noi quando eravamo ragazzi e capire anche quali sono i canali attraverso cui gli adolescenti cercano, se sono i professori a suggerire i libri di lettura, se invece hanno anche, funziona il passaparola. Alberto, noi un professore ce l'abbiamo intanto. Esatto, noi, a noi non manca niente oggi in trasmissione. Tra l'altro Benedetta è qui nella doppia funzione di scrittrice ma anche di mamma di quattro figli, ha quattro figli tra i 17 e gli 8 anni e quindi ci dirà ogni tanto, quando va a spiare nei libri che leggono i suoi figli, che cosa trova di diverso rispetto ai libri che leggeva lei e soprattutto cosa ne pensa, perché lei è proprio una penna che ha un pensiero da poter esprimere in questo senso. Ma nel nostro parterre di ospiti abbiamo anche Giordano Aterini, che salutiamo. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Siamo molto felici di avere Giordano perché lui è un editor, ci specificava junior editor, ma significa che lui tutti i giorni deve leggere i libri che vorrebbero essere pubblicati ed è un editor per Rizzoli Ragazzi, quindi lui sa tutto di quello che dovrebbe finire in libreria per i nostri figli e ci faremo raccontare nuove tendenze, nuovi stili e soprattutto nuovi protagonisti nei libri più amati dagli adolescenti. Tra l'altro, Giordano, con te prendiamo tre pesci, no? Perché tu sei anche scrittore e poi soprattutto collabori alla progettazione, pensate, dell'unico festival di letteratura per adolescenti che si svolge proprio a Rimini. Esattamente, Mare di Libri. È un festival che ormai è arrivato alla terza edizione quest'anno, dal 18 al 20 giugno saranno. Trovate tutte le informazioni su maredilibri.it. Intanto tu ci racconterai e vogliamo sapere anche un po' le tendenze e andiamo al nostro prof preferito, Alessandro, a me viene da dire Ale perché ci conosciamo da tempo, Alessandro, il professor Alessandro D'Avenia. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, un professore che ha fatto il botto, lasciatecelo dire, noi siamo parte di quel successo perché noi ti abbiamo avuto proprio quando il tuo libro era in ristampa per la prima volta, è autore di Bianca come il latte e Rosso come il sangue, Mondadori editore, sta avendo un enorme successo non solo tra i ragazzi ma è molto amato anche dagli adulti, quindi uno di quei libri che leggono i genitori e leggono i figli e qua, come dice la Nico, gli facciamo fare anche il professore. Anche il professore. Invece voi da casa all'824 0024, chiamateci, dateci, tratteggiateci il profilo di vostro figlio e noi metteremo all'opera i nostri esperti che proveranno a suggerire il genere o anche il titolo adatto per avvicinarli ai libri. Poi potremo anche suggerire dove far trovare un libro ad un ragazzo che con i libri non ha molto feeling. Alberto, tu dove glielo faresti trovare un libro buttato lì, magari aperto? Proviamo a fare un giro di tavolo. Allora, intanto sul comodino, di fianco al letto, perché quello è un momento in cui tiri su qualcosa e leggi nell'attesa del sonno. Alessandro, dove si fa trovare un libro? Non si fa trovare, devi leggere la prima pagina e lanciare così la curiosità. Io faccio così con i miei alunni, entro in classe e dico sto leggendo un libro meraviglioso, leggo una pagina e poi succede che un mese dopo un alunno o un'alunna mi dice ho comprato il libro, mi è piaciuto moltissimo. Quindi è un consiglio che ti senti di dare anche ai nostri genitori all'ascolto. Sì, i libri hanno bisogno di testimoni. 824 0024. Giordano, dove faresti trovare un libro per invitare un adolescente a leggere? Io credo molto nel potere dell'ossessione, per cui comprerei tantissime copie di questo libro e le spargerei un po' dappertutto. Facendo la felicità dell'editore. Esattamente, anche. Benedetta, tu che di figli ne hai 4, ecco, se seguissi il consiglio di Giordano dovresti vivere o a Versailles oppure finisci in... No, io le ho provate un po', ho provato a seminare i libri per casa, sui comodini, metterli negli zaini prima che partissero per le vacanze, ma alla fine la cosa che funziona di più è io mi metto provocatoriamente davanti a loro con un libro che mi diverte molto e ignoro quello che loro fanno e ogni tanto dicono ma che fai, ma perché non ci dai retta, ma che fai? E alla fine poi la curiosità nasce. Mamme all'ascolto, papà all'ascolto, all'824 0024, descriveteci vostro figlio, gli troveremo il genere, il libro ideale, ma raccontateci anche come avete aiutato vostro figlio ad appassionarsi alla lettura. Cerchiamo un po' di capire che cosa leggono gli adolescenti di oggi, che cosa leggevamo noi quando eravamo adolescenti. Forse noi, Alberto, eravamo un po' meno fortunati rispetto ai ragazzi di oggi. Sì, io credo che ai nostri tempi intanto le letture erano fortemente condizionate da quello che ti dicevano a scuola, tu devi leggere, però quella secondo me era una buona via per cominciare intanto a capire cosa davvero rende un libro un classico della letteratura. Io ripensavo, preparando la trasmissione, a che cosa ho letto durante l'adolescenza e devo dire Zanna che ho letto Bianca, no, un classico. Ho letto tutto Pirandello e tutto Stephen King. Pirandello mi ci ha fatto appassionare la mia professoressa di lettere, Stephen King il mio migliore amico, mi ha passato It e da lì è stato proprio un leggere continuo durante le vacanze. Alessandro, il ruolo del professor, qua siamo a Torino, possiamo chiamarlo così, o del prof, è fondamentale, nel bene e nel male. Ecco, ci hai già dato un piccolo cenno su come tu appassioni i tuoi ragazzi alla lettura, però sai, molti ragazzi invece veramente affaticati dal numero di libri che devono leggere per stare al passo con le richieste dell'insegnante poi non spengono la loro curiosità, non riescono a leggere altro, anzi hanno una sorta di nausea. Questo rischio c'è? Sì. Intanto non oso immaginare il profilo psicologico che abbia causato in te questa mistione fra Pirandello e Stephen King. È così. Lasciamolo, cioè fate finta che non abbia detto nulla. Allora, la sfida di un professore è quella di intanto vincere la cultura delle antologie, perché i ragazzi odiano, pensate ai Promessi Sposi, romanzo che letto fuori dalla scuola per molte persone è uno dei romanzi più belli. Eppure è il romanzo più odiato dagli italiani. Allora, qualche colpa io come professore ce l'ho, credo. Allora, la prima battaglia credo sia contro le antologie che ci hanno abituato a questa idea che la letteratura è una cosa che si fa a pezzi e se ne leggono dei pezzi per dire delle altre cose su questi pezzi. È come andare dal macellaio e mi dia un pezzo di carne. La letteratura non è fatta per questo. Allora, noi in classe leggiamo il primo anno del quinquennio classico o scientifico l'Odissea dal primo all'ultimo verso. Ciascuno adotta un personaggio, lo legge ad alta voce e alla fine di questo percorso i ragazzi all'inizio sono spaventatissimi, si annoiano, si ribellano, dice lei è folle. Alla fine di questo percorso ti ringraziano perché sono stati in un mondo. Quindi il problema grosso è se noi della generazione precedente, in particolare i professori, crediamo all'efficacia dei classici, ma per far credere a loro che questa efficacia c'è bisogna renderli presenti. Certo. Giordano, Alessandro ci parlava dell'importanza dei classici, adesso quali sono le tendenze per gli adolescenti che leggono i classici perché in qualche modo invogliati ed obbligati dal prof, ma poi cercano di assaggiare qualcosa altrove, cosa trovano? Allora, credo che i classici continuino comunque ad avere appeal tra i ragazzi, magari li scoprono anche in età diverse rispetto a quando gli sono stati imposti, diciamo, imposti tra virgolette dalla scuola. Io so di tantissime persone che si sono innamorate anche di Jane Austen, per dire, senza che passasse attraverso la scuola. È chiaro che poi il ragazzo o la ragazza si muova, che ha il tarlo della lettura, si muova poi seguendo le proprie inclinazioni. Adesso sicuramente due grandi generi hanno attraversato il mercato dei libri per ragazzi negli ultimi anni e sono stati dei successi a tutti i livelli internazionali, che sono stati anche dei veri e propri crossover, cioè libri letti sia da ragazzi che da adulti, e sono sicuramente il genere fantasy con Harry Potter e il genere un po' più recente, che è quello che viene definito paranormal romance, che è quello di Twilight e dei vampiri. Esattamente. Benedetta, tu hai letto questi libri, un po' passandoteli magari con i tuoi ragazzi? Sì, onestamente no. Io con i miei ragazzi ho una grande difficoltà a parlare di libri, in realtà, il che è un po' assurdo essendo io una scrittrice, ma non voglio che, proprio perché trovo così importante che in qualche modo loro si appassionino alla lettura, non voglio che sia un suggerimento che arriva da me, che sono comunque il genitore, perché in realtà i ragazzi a un certo punto tutto quello che arriva la mamma e papà diventa automaticamente qualcosa che è privo di interesse, no? E dunque in realtà io ci arrivo sempre lateralmente, no, ai libri. Sì. Ci arrivo, magari gli faccio vedere un film e gli dico: ma lo sai che questo prima in realtà era un libro? Ci arriviamo in qualche modo così. Cerco, ecco, un lavoro trasversale. Andiamo a Pavia, ci chiama Ginevra all'824-0024. Benvenuta Ginevra, si accomodi. Ginevra? Ginevra l'abbiamo persa, ma la recupereremo. Alberto. Ma io sarei molto curioso, ci sono qua molti studenti con noi oggi al nostro stand, di capire qual è l'ultimo libro che hanno letto e in particolare qual è negli ultimi 2 anni il libro che li ha appassionati di più, in modo che poi magari sul loro dato significativo facciamo qualche riflessione. Ecco, noi abbiamo detto ai ragazzi, lo dico agli amici da casa, a questi ragazzi che gentilmente si sono offerti volontari, sono stati portati dalla loro insegnante, che penso abbia minacciato interrogazioni a tappeto martedì, abbiamo detto: non vi interrogheremo, ma Alberto, facendo anche il professore universitario, non ce la fa a non interrogare. Allora io traduco la cosa da mamma. C'è un libro di cui avete sentito parlare, avete letto, vi piace? Volete raccontarci? Volete dare un titolo? Volete suggerirlo? Chi parla? Abbiamo... Come ti chiami? Sara. Sara, benvenuta. Dunque, l'ultimo libro che ho letto è un romanzo è un romanzo d'appendice, in realtà, è di uno scrittore western che si chiama Zane Grey, che a me piace molto. Si chiama Occidente del Pecos. E invece un libro che mi ha colpito in particolare in questi ultimi 2 anni è stato Il giorno più lungo di Cornelius Ryan, perché è stato un periodo che mi sono appassionata alla storia dello sbarco in Normandia e ho letto dei libri su questo episodio, e in particolare mi era piaciuto Il giorno più lungo. Poi mi era piaciuto anche il film quando l'avevo visto anni fa, quindi in particolare questo libro mi è piaciuto molto. Grazie Sara, che ha rotto il ghiaccio. Mi piacerebbe fare un applauso a Sara, scusate. Perché io trovo che ci sia, parlare di libri con un amico, a me fa molto piacere. Spesso parliamo di libri con Alberto, è un po' come raccontare i propri sogni, c'è qualche cosa di intimo nel raccontarsi i libri. Alessandro, tu cosa dici? Quindi ci ha fatto un grande regalo Sara. Sì, tra l'altro è una delle frasi di quel film, io l'amo moltissimo perché è il motto di noi professori: resisterete finché non vi sostituiranno. Che era una frase emblematica di quel film, e noi quando ci troviamo in classe ogni tanto ce lo ripetiamo fra colleghi. Ce lo ripeteremo anche io, Alberto, allora. E ritornavo su una proprio su quello che hai appena detto tu, Nicoletta, perché io credo che il passaparola sia uno straordinario metodo per appassionarsi alla lettura, per scoprire un nuovo autore, e credo che sia stata anche una delle grandi fortune di Benedetta Cibrario, che quando è uscita con Rosso Vermiglio era il suo primo romanzo, fondamentalmente era una nuova scrittrice e ha veramente costruito un mondo di passaparola intorno al suo libro, ed è quello stato uno dei motivi per cui è stato amato così tanto. Allora, noi abbiamo Andrea dalla provincia di Como, che ci chiama all'824-0024. Andrea, buongiorno. Sì. Non sentiamo. Andrea? Pronto? Pronto? Andrea, buongiorno a lei. Ci racconti? Buongiorno. Siamo qua per lei. Noi la sentiamo bene, se lei parla poi ci sentiamo ancora meglio. Sì, io parlo, volevo solo raccontare la mia esperienza. Io ho una bambina di 11 anni e per appassionarla alla lettura mi metto lì con lei alla sera, al pomeriggio, gli racconto i libri di avventure che leggevo io da ragazzo, che erano Salgari, Giulio Verne, Jack London, gli racconto queste storie e cerco di appassionarla. Adesso quei libri ormai sono un po' fuori moda, diciamo, ci sono libri di avventura molto più moderni per i ragazzi di oggi, però gli racconto com'era bello per me leggere questi libri di avventure e appassionarmi a queste avventure e cerco di trasmettere anche a lei questo tipo di entusiasmo e devo dire che abbastanza ci riesco bene. Funziona. Allora, grazie Andrea. Giordano, Andrea dice, leggo quello che leggevo io da ragazzo e adesso sono forse passati un po' di moda. Secondo te è vero oppure si potrebbero ripescare in una nuova chiave? Io ho in mente un film che ha fatto abbastanza successo un po' di anni fa, che si intitola Ovo Sodo, e verso la fine del film il protagonista lavora in una fabbrica, mi pare, e si trova praticamente a rivestire la figura del narratore vecchio stile, per cui racconta tutti i libri che lui ha letto a scuola e tutti rimangono super appassionati dalle storie che racconta, per cui io credo che sicuramente l'approccio alla lettura debba passare per la parola raccontata, proprio la parola orale. A me è successo così ed è successo con un mio professore delle medie, per cui che ci leggeva dei racconti di Dino Buzzati tratti dalla Boutique del Mistero il sabato a mezzogiorno, e sono sicuramente le storie che mi sono rimaste più impresse nel cervello. Lì credo di avere capito che in realtà il cinema, i videogiochi, anche i fumetti, tutti raccontano una storia, ma la raccontano in maniera differente. Ci sono alcune storie che possono passare tranquillamente attraverso il cinema e attraverso i libri, ma ci sono delle volte che voglio che una storia mi venga raccontata tramite la parola scritta. Ci siamo portati anche la clac, non ci siamo fatti mancare nulla al Salone del Libro di Torino, ma noi siamo qua per voi come ogni sabato, 800 24 0024. Se volete intervenire, chiamarci o mandarci messaggi al 349 238 6666. Alberto, io chiederei ai nostri amici di provare, dato che molti genitori sono qui che girano per il Salone del Libro. Allora, Benedetta, tu che di figli ne hai quattro, un consiglio ad un genitore per un ragazzo adolescente, quindi parliamo di un adolescente tra i 14 e i 16 anni, quale genere suggeriresti, e se hai un libro che tu come mamma porteresti a casa per uno dei tuoi quattro figli che rientra in quell'età? Ma io credo che il genere va un pochettino così lasciato scegliere a loro, in realtà, nel senso che io, per esempio, al mio figlio maschio pensavo di poter suggerire dei libri d'avventura o fantasy o così, e poi lui un bel giorno mi ha risposto: guarda, io se proprio devo leggere voglio leggere Maupassant, e io sono rimasta assolutamente basita. Quindi ho smesso da questo punto di vista di suggerire. Ho visto però che questo è un buon modo di distillargli l'amore della lettura, cioè non partire mai dal presupposto che ci sia letteratura alta e letteratura bassa. Avranno tutta la vita poi per scoprirlo se veramente c'è, quindi va bene tutto purché leggano. Sotto cieli non curanti, cosa può trovare un adolescente nel tuo ultimo libro? Ma io credo che un adolescente, a parte una certa speditezza di lettura, ci può trovare la fatica che si fa a qualunque età per diventare grandi, e anche una volta che si è diventati grandi si scopre che la fatica si continua a fare lo stesso. Giordano, in un soldo per le tue paure. Allora, quello che ho cercato di spiegare io in quel libro è che avere tante paure, essere goffo e sentirsi un po' come se non ti avessero dato completamente il libretto di istruzioni quando sei nato per orientarti nel mondo, non è un problema, ecco. Io avrei voluto che ci fosse qualcuno quando avevo quell'età lì che mi dicesse: non c'è problema, è così che vanno le cose, tutto sommato tutti sono così ed è una bella cosa essere così, ecco, più o meno questo è il senso del libretto. Mi piace questo del libretto delle istruzioni, che a volte si può scaricare da internet, no? Se lo perdi o magari per uno strano caso non è nella scatola. Alessandro, noi abbiamo dedicato proprio una puntata alla tua esperienza con i ragazzi, da cui è poi nato il libro. Avevamo proprio due tuoi allievi in studio, un libro di grande successo. Guarda, io posso dirti con le parole di un ragazzo che mi ha scritto dopo aver letto il romanzo, mi ha scritto così: grazie per questo libro perché ha dentro tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché ci fa sentire capiti ma non ci fa sconti, che credo che sia quello di cui ha bisogno questa generazione qui. Cioè qualcuno che ti dica, come diceva prima Giordano, non avere paura, quello che ti sta succedendo è successo nei secoli dei secoli e continuerà a succedere, ma allo stesso tempo mettere l'asticella un po' più in alto, perché è quello che fa poi scattare le risorse che ci sono in questi ragazzi. 800 24 00 24, prima di dare la parola ai nostri ragazzi che sono qua al Salone del Libro insieme a noi, Ginevra da Pavia, che abbiamo ripescato. Ginevra, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io premetto che ho i bambini molto piccoli, perché uno ha 7 anni, uno 5 e uno 3. Però secondo me ho escogitato un metodo che potrebbe essere molto utile per incuriosirli alla lettura. Abbiamo scelto una giornata della settimana e ci richiamo sempre in un piccolo paese dove c'è una biblioteca molto fornita, che è la biblioteca di Rivanazzano, in provincia di Pavia. E ogni settimana scegliamo libri diversi che poi magari leggiamo la sera prima di addormentarci, oppure ne discutiamo, certamente libri che sono proporzionati al loro grado intellettivo. Però con questo presupposto, rendendo anche poi la giornata molto ludica, perché si va a mangiare la cioccolata piuttosto che il gelato, al parco giochi, ho visto che stanno veramente sviluppando questa passione per la lettura. E il grande, che va a scuola e fa solo la prima elementare, vedo che sta veramente manifestando grossi progressi anche nella calligrafia, nella capacità di apprendimento, e secondo me questo potrebbe essere un input per tutte le mamme di tutti i gradi, naturalmente culturali, perché poi in biblioteca si trova di tutto e di più, di scegliere una biblioteca di un bel paese, e devo dire che quella di Rivanazzano, per essere un paese piccolo, così la ricordiamo, è davvero ben fornita. Quindi questo è il suggerimento di Ginevra, un suggerimento che vale per tutte le età. Alberto, tienilo anche per te, per i tuoi bambini. Vogliamo dare la parola ai nostri ragazzi? Una parola rispetto a Ginevra: non solo le mamme portino i loro bambini in biblioteca, ma anche il papà. Anche papà. Prego. Io sono Roberto. Roberto, benvenuto. Grazie. Il libro che mi è piaciuto di più è un libro che ci ha consigliato la nostra professoressa, ed è La ragazza con l'orecchino di perla, di Tennessee Chevalier. E mi è piaciuto soprattutto per la sua ambientazione storica, che conserva, nonostante sia appunto un romanzo storico, conserva la sua freschezza, ed è comunque grazie alla sua descrizione dell'intimità e dei sentimenti dei personaggi è tuttora attuale. Grazie Roberto. La professoressa che ha dato questo spunto, questo suggerimento a Roberto, è la professoressa Maria La Scala, che ha accompagnato i ragazzi dell'Alfieri ed è qua con noi. Sì, io volevo raccontare solo due esempi, sì, che mi hanno permesso di avvicinarmi a libri che non conoscevo. Uno, quando avevo l'età dei miei allievi, ho sentito alla radio un'attrice che raccontava dell'ultimo libro letto, che era Fausto e Anna di Carlo Cassola. Io l'ho comprato, mi è piaciuto, e poi ho letto tutto quello che ha scritto Cassola. Un altro esempio, e qui voglio essere sincera, in libreria vedo un libro con una copertina piena di rose rosse. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho comprato, era rosso vermiglio e era bello anche il romanzo, naturalmente. Grazie, grazie alla professoressa. Vorrei commentare rapidamente con voi questo. Sentirsi leggere un libro, una pagina di libro, come ci raccontava Alessandro D'Avenia, attiva qualcosa, rompe, no? Incuriosisce, mette subito in contatto. Benedetta, secondo te è una buona strategia? Assolutamente sì, mette in contatto, ti fa venire voglia di saperne di più. Ma volevo anche dire una cosa alla mamma che è intervenuta prima, portando i bambini in biblioteca. Io ho sperimentato con le mie due figlie più piccole, 7 e 8, da poco tempo, e mi sembra che funzioni. un altro metodo, cioè anche il fatto che a loro piace, soprattutto quando sono piccolissimi, di imitare il genitore. Quindi ho detto alle mie bambine: facciamo una cosa, voi prendete il vostro libro, io prendo il mio libro e ci mettiamo tutti sul lettone e ognuno legge un po' del suo libro. Questa cosa è piaciuta moltissimo. Anche noi facevamo la lettura del lettone. Adesso le mie figlie hanno 20 e 18 anni e stanno nei loro letti, ma ogni tanto ci ritroviamo sul divano senza scarpe. Giordano. Statisticamente si sa che c'è molta più probabilità che un ragazzo figlio di lettori diventi lettore a sua volta. Un po' credo che dipenda dal fatto di trovare familiarità diretta con l'oggetto libro, per cui più ne hai a casa, più diventa facile che il libro non sia semplicemente quello scolastico, come dicevamo prima, ma che contenga delle altre cose, degli altri messaggi e cose del genere. Anch'io sono rimasto colpito dalla telefonata, perché la gita in biblioteca mi sembra una grandissima cosa, sinceramente. Abbiamo proprio un minuto, mi stanno segnalando dalla regia, e che divido 30 e 30 tra Alessandro D'Avenio ed Alberto Pellai. Allora, credo che abbiamo toccato il punto centrale di che cos'è la letteratura. Tutto è cominciato con gente che si riuniva attorno a un focolare e si raccontava l'Ilia dell'Odissea. E stiamo continuando a riscoprire sempre la stessa cosa. Allora sembra un po' l'acqua calda, ci vuole la voce, ci vuole questa oralità rinnovata, e in noi si risveglia questa fame, questa sete di cose spirituali, come la chiamava Pavese, che lui temeva di perdere quando è diventato adulto. Diceva: ho terrore del fatto che i libri non mi interessano più come quando avevo 15 anni, è il segno che la mia giovinezza è finita. Il professore però si vede, no Alberto? Anche tu sei professore, chiudi con una bella... con... Allora, attenzione, la sfida è avvincente. Se penso, 30 secondi. Se penso a cosa sono stati i libri per me, se penso a cosa vorrei che i libri fossero per i miei figli, io ho tre parole. Prima di tutto divertimento, secondo sogno, un libro ti deve proprio far sognare, terzo vita, un libro è qualcosa che metti nello zaino degli attrezzi della tua vita e che probabilmente ti aiuta a viverla meglio. Grazie allora a tutti i nostri ospiti che ci sono venuti a trovare, grazie a voi che ci avete seguito come ogni sabato, ai nostri ragazzi del pubblico. Un saluto, buon sabato, buon salone da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.